Israele, il caos politico. Cina, il mistero 2.0 del laboratorio di Wuhan. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Angry Israelis who are out of job, who've lost their money, and who have no patience for those political games. There's a growing belief that the COVID-19 virus originated in the Wuhan lab. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi vi racconteremo storie che arrivano da lontano ma che inevitabilmente impattano anche sulla vita quotidiana di noi tutti. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano vi porge i suoi saluti: Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, oggi Elisabetta Fusconi in assistenza e oggi Andrea Roccabella è in console. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp per domande e commenti. Vi ricordo le poche semplicissime regole per animare il dibattito qui a Nessun Luogo Lontano. Non ammetto sessismo, commenti xenofobi, volgarità di ogni tipo. Per il resto liberissimi di commentare, porre domande più che a me, direi ai miei ospiti, e anche di criticare, perché no, questo programma. Lo potete fare anche via Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Su Twitter cercateci, siamo Nessun Luogo 24, oppure potete cinguettare il mio account che è Giampaz. Detto ciò, la prima cosa da fare anche quest'oggi è andare a sfogliare i dossier internazionali. Lo ricordo, i dossier internazionali per noi sono quelle storie che da un po' di settimane stiamo seguendo e vi stiamo raccontando quotidianamente, o magari nuovi spunti di riflessione che diventeranno approfondimenti qui a Nessun Luogo è Lontano. Sapete, per parecchi giorni abbiamo seguito il teatro siriano con tutti i profondi rivolgimenti che esso ha vissuto dal 2011 in poi. Ecco, rifà capolino l'ISIS, o almeno ciò che resta del sedicente Stato Islamico. Vi abbiamo spesso raccontato come piccole sacche di resistenza sia in Iraq sia in Siria siano ancora estremamente pericolose, e l'avventura di Erdogan, l'avventura turca dentro il territorio siriano, sicuramente ha creato maggior scompiglio, imbarazzo soprattutto nelle forze curde appoggiate dagli Stati Uniti, una volta prepotentemente appoggiate, adesso decisamente un po' meno. Dicevo, soprattutto nella gestione dei tanti militanti o sospetti militanti di ISIS prigionieri. Ebbene, poche ore fa ne ha dato notizia all'Osservatorio per i diritti umani di Londra, che è questa diaspora siriana che fin dal 2011 racconta, da molte parti si è sottolineato che sia una voce assolutamente univoca. Detto ciò, da ormai 10 anni racconta la guerra civile siriana, ci dà notizia del fatto che alcuni militanti dell'ISIS avrebbero attaccato un'installazione petrolifera nell'est della Siria, una zona tuttora controllata dalle forze curdo-siriane. Perché è importante questo attacco se venisse confermato? Perché ancora una volta dobbiamo ribadire che l'ISIS deve approvvigionarsi, di materie prime per poter garantire la propria esistenza. Anche se è estremamente sfilacciato e ormai ridotto a una serie di piccoli nuclei, è evidente che l'accesso a risorse, energie e materie prime è vitale per tentare un'eventuale ricostruzione di quello che è stato lo Stato Islamico per alcuni anni. Intanto arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, vi ricordo i temi che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Dal lato l'impasse politico israeliano che sta assumendo dei toni veramente paradossali, il presidente Rivlin ha dato l'incarico al Parlamento di formare il governo, quindi quale che sia la maggioranza, sostanzialmente il messaggio tra le righe è stato questo: per favore, governo di unità nazionale, non è il momento di litigare. E poi torneremo su quella polemica, l'abbiamo definita 2.0, questo giallo sul laboratorio di Wuhan dove sarebbe nato il virus. Perché ne riparliamo? Beh, perché sono arrivati ci sono state delle rivelazioni da parte del Washington Post, è un'informativa che gira negli ambienti dei servizi segreti americani, naturalmente ve ne daremo conto. Fatemi però concludere quella che è la parte relativa ai nostri dossier internazionali. Torniamo in Europa, in particolare in Polonia, perché proprio ieri si è consumata una pagina politica non bizzarra per la società civile polacca, però che desta preoccupazione soprattutto nella società civile e nella componente femminile della società civile, perché è iniziata ieri in Parlamento la discussione di un nuovo disegno di legge molto contestato che mirerebbe a limitare ulteriormente la possibilità per le donne di ricorrere all'aborto. Quella stessa legge era stata già presentata 4 anni fa, nel 2016, ma lì ci fu una protesta di piazza incredibile per cui alla fine il Parlamento sostanzialmente sospese i lavori per proporre la legge. Il tutto avviene in un paese, la Polonia, che ha già una delle leggi più restrittive in tema di aborto. Infatti è possibile per le donne polacche abortire solamente in alcuni casi, caso di stupro, di incesto, oppure se la salute della madre o del bambino è compromessa. Se questo disegno di legge dovesse vedere la luce e poi diventare legge polacca a tutti gli effetti, l'aborto sarebbe vietato anche in caso, per esempio, di malformazioni evidenti del feto. La levata di scudi da parte del femminismo polacco ha soprattutto sottolineato il tempismo, e lo diciamo tra virgolette, evidentemente, di questa proposta politica. Avviene proprio in un momento in cui non si può fondamentalmente uscire di casa a protestare, avviene in un momento in cui le energie anche emotive e psichiche di tutta la popolazione mondiale sono rivolte a quella che è l'emergenza, e quindi si è detto mossa decisamente discutibile. Nonostante ciò, però, alcune centinaia di donne, tutte a debita distanza e tutte con le mascherine, sono comunque scese in piazza per protestare, e mentre più numerosa è stata invece la compagine di donne polacche che ha deciso di esprimere il proprio dissenso attraverso la rete, ricorrendo ai social con un hashtag protest at home, cioè protestate a casa. E poi andiamo negli Stati Uniti, in particolare con la rabbia di alcuni statunitensi. My husband is on unemployment for the first time in our life. And it's unwillingly that we're taking unemployment. We want to go back to work. Lock her up! Lock her up! Lock her up! Lock her up! Lock her up! Le voci che avete ascoltato ci arrivano dal Michigan, uno stato degli Stati Uniti d'America paralizzato dall'epidemia di coronavirus, dove la frustrazione ha raggiunto livelli molto molto alti. L'avete sentito anche dal GR, la disoccupazione statunitense sta raggiungendo livelli allarmanti a causa della chiusura e dell'arresto dell'attività produttiva, quantomeno parziale, del paese. Il Michigan è un po' nell'occhio del ciclone e le voci che avete sentito sono voci di manifestanti che hanno protestato in particolare contro una persona che è la governatrice democratica Gretchen Whitmer. La Whitmer, forse non troppo nota al pubblico italiano, sta un po' tornando in auge dal punto di vista politico perché si vocifera potrebbe essere una delle vicepresidenti di Joe Biden, sempre che Joe Biden, Sleepy Joe come lo chiama Donald Trump, riuscirà a salire i gradini della Casa Bianca. Alcuni manifestanti, torniamo a quella piazza di cui avete avuto un eco, nonostante siamo a migliaia di chilometri di distanza, ecco, in quella piazza purtroppo si sono viste, dico purtroppo perché è una venatura della società americana che abbiamo sottolineato, in questo momento non è particolarmente rassicurante, dicevo, si sono viste persone armate di pistole e di fucili, persino fucili d'assalto, hanno gridato slogan a favore degli Stati Uniti, ma soprattutto hanno anche gridato slogan contro la governatrice, lock her up, cioè imprigionatela, rinchiudetela, che era lo stesso slogan che veniva gridato nei confronti della Clinton. Più volte in questo programma vi abbiamo raccontato di quella per noi incomprensibile corsa alle armi che si è verificata nelle ultime settimane. Le armerie degli Stati Uniti sono state prese letteralmente d'assalto. Momento di emergenza, momento di incertezza sul futuro, alcuni americani hanno deciso di proteggersi e di garantirsi il futuro attraverso la detenzione di svariate armi. Ecco, ne abbiamo avuto immediatamente un riflesso verso una governatrice la quale ha deciso di imporre un lockdown estremamente gravoso per l'economia dello Stato, ma allo stesso tempo, nel suo pensiero, fondamentale per la salvaguardia dei cittadini. E poi alle porte d'Europa, Ucraina, Donbass, Crimea, il fronte, quel fronte orientale che non si è mai sopito, sta vivendo momenti altalenanti, tra i momenti diciamo che potrebbero portare a una riappacificazione, forse un po' forte il termine, c'è un continuo dialogo per lo scambio di prigionieri. Secondo il governo di Kiev, molto a breve saranno liberati 19 cittadini ucraini che erano stati prelevati, rapiti e tenuti in ostaggio dai separatisti filorussi del Donbass. Nella tensione però, la tensione nella regione rimane molto alta, ci spostiamo in Crimea dove sono avvenuti due arresti, in particolare una donna ufficiale delle forze armate russe e un cittadino ucraino che erano sospettati di fare il doppio gioco, di essere spie di Kiev. Quest'ultima notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Questo è il nostro termometro internazionale. Adesso è arrivato il momento di occuparci delle due pagine di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano dall'Altro. Un incredibile, inaspettato e assolutamente eccezionale, lo dico nel senso etimologico del termine. Non era mai successo una crisi politica di questo livello in Israele. Andiamo allora proprio in Israele. Three election campaigns, Netanyahu could not build a government. I received your mandate. I received your call to do what our country needs. Questo è un discorso di Benny Gantz dalla televisione israeliana. Netanyahu, ha detto Gantz, il leader del partito bianco e blu. Netanyahu per tre volte ha avuto la possibilità di formare il governo, non ci è riuscito, io ho risposto alla vostra chiamata e non mi arrenderò mai, non cederò ad alcuna difficoltà, ad alcuna pressione. Tutto giusto, diciamo, per un politico combattivo come Benny Gantz, leader del partito bianco e blu, se non fosse che proprio ieri è scaduto quel mandato, quel periodo di tempo che il presidente Reuven Rivlin aveva concesso a Benny Gantz per mettersi d'accordo fondamentalmente con l'Likud di Netanyahu, formare un governo di unità nazionale. Ricorderete, Israele ha vissuto ben tre tornate elettorali nel giro di un anno. A questo punto, sullo sfondo, visto che Likud e Bianco e Blu non riescono a mettersi d'accordo, c'è, pensate, un quarto appuntamento elettorale che arriverebbe praticamente nel giro di un anno esatto. Allora, a quel punto, il presidente israeliano ha deciso di affidare il compito di formare un nuovo governo interamente al Parlamento, quindi chi che sia la personalità che riuscirà a raccogliere, a radunare attorno a sé 61 seggi, 61 parlamentari disponibili sui 120, ebbene avrà il compito di traghettare Israele fuori da questa crisi politica e fuori dall'emergenza del Covid-19. Vi faccio allora sentire la voce di Emmanuel Navon, che è un professore dell'Università di Tel Aviv, esperto in relazioni internazionali, esperto in sicurezza e anche un analista che appare molto spesso su i24 News, che è un po' la all news israeliana. Emmanuel Navon va immediatamente a fotografare l'eccezionalità di questo momento della vita politica israeliana. Sentite. It is unprecedented in the history of Israel to have such a political. È un fatto senza precedenti nella storia di Israele quello di avere un'instabilità politica di questo livello. Storicamente i nostri governi, nonostante un sistema puramente proporzionale, sono durati in media 3 anni, sui 4 che è la naturale vita per legge. Non abbiamo mai avuto tale instabilità e la ragione principale per cui abbiamo avuto 3 elezioni in un anno e per cui potremmo purtroppo averne una quarta questo mese è riconducibile alla personalità del primo ministro Netanyahu, che è stato al potere nel complesso 14 anni, se si considerano anche i 3 anni dal 1996 al 99. È stato incriminato per alcuni casi di corruzione e vorrebbe stare al potere, anche se nelle recenti elezioni è emersa una maggioranza di centrodestra. Non c'è stata una maggioranza per Netanyahu stesso, perché non ha il sostegno di Lieberman, il partito nazionalista e secolare più forte della destra, e la vecchia coalizione di blu e bianco che lo sfidava non vuole allearsi con lui. La sola ragione per cui negli ultimi 10 mesi ci sono state negoziazioni tra i due è stato a causa della crisi del coronavirus, un evento senza precedenti in Israele e nel mondo. Ma anche ora questo potrebbe non funzionare. perché ciò che Netanyahu vuole è un meccanismo che lo protegga dal procedimento giudiziario e Benny Gantz potrebbe non essere d'accordo. Quindi, sfortunatamente, un accordo fra ciò che resta di blu e bianco e Likud potrebbe non esserci, il che ci porterebbe alle quarte elezioni, che sarebbero di certo una crisi politica senza precedenti nella storia del nostro paese. Nelle parole di Emmanuel Navon, lo spettro delle quarte elezioni nel giro di un anno in Israele, quanto tempo ha la Knesset per risolvere questo incredibile nodo politico? Ebbene, 21 giorni, perché tanto è stato il tempo concesso dal presidente israeliano. Il presidente Rivlin, che si sta ritagliando, non soltanto nei media israeliani, anche un posto e uno spazio che prima evidentemente non aveva. 349-238-6666 invece lo spazio per voi, per animare questo dibattito, porre domande e commentare. C'è qualcuno che va dritto al punto, sostanzialmente, come Emmanuel Navon, nostro ospite, professore dell'Università di Tel Aviv. Così un ascoltatore scrive: Netanyahu è stato il grande vincitore degli ultimi anni, ha perso due elezioni, è stato comunque premier, è incriminato, continua a essere il perno della politica e tutti gli altri non riescono a scalzarlo. Scritto peraltro quasi in metrica e quasi con degli accapo poetici, ma fotografa in maniera perfetta quello che è la caratteristica della politica israeliana, con questo peso massimo Benjamin Netanyahu, 14 anni al potere se consideriamo la fine degli anni 90, quell'accelerazione, quel andare a braccetto con Donald Trump, l'ambasciata che si sposta a Gerusalemme, il riconoscimento della capitale, il pugno duro contro i palestinesi con quelle dichiarazioni di voler annettere la Valle del Giordano, riconoscere tutte le colonie, insomma una linea politica molto definita. Rivlin invece, pur essendo nazionalista, pur essendo un personaggio di spicco di Gerusalemme, allo stesso tempo è molto amato anche nel mondo arabo. Chi è Rivlin? Chi è questo presidente israeliano che per alcuni mesi è rimasto nell'ombra cercando di disricarsi e adesso assurge all'altare della cronaca con questa scelta incredibile, questa decisione di far passare la palla all'intero Parlamento? Una fotografia di Rivlin, ascoltiamo. Autodefinitosi un uomo di Gerusalemme, il 74enne Reuven Rivlin vanta il privilegio di essere nato nella città santa. Rivlin è membro di una famiglia di origine austriaca stabilitasi in Palestina già dal XIX secolo, molto influente in seno alla comunità ashkenazita. Il padre, oltre a essere stato candidato presidenziale, fu il primo traduttore del Corano in ebraico. Veterano della politica israeliana, Rivlin, detto Ruby, è entrato per la prima volta nella Knesset nel 1988. Nel 2014, succedendo a Shimon Peres, è stato eletto decimo presidente dello Stato di Israele. Falco del Partito Nazionalista Liberale del Likud è un fervente sostenitore della One State Solution. Contrario alla creazione di uno Stato palestinese e critico con il piano di ritiro dalla striscia di Gaza, Rivlin si è però sempre mostrato favorevole all'estensione della piena cittadinanza alla popolazione araba della striscia di Gaza e della West Bank. Fluente in arabo, nonostante le sue posizioni nazionaliste e interventiste, Rivlin è sempre stato considerato un difensore dei diritti delle minoranze, specialmente quelle degli arabi israeliani, godendo del rispetto dei suoi avversari per il suo approccio legalitario. Personaggio ben voluto all'interno del Parlamento israeliano, il suo appeal trasversale alle forze politiche è stato dimostrato nelle elezioni a speaker della Knesset e a capo di Stato, dove è stato appoggiato sia dal blocco arabo che dai partiti conservatori. Rivlin non gode però della simpatia di Netanyahu. I rapporti difficili tra i due sembrano risalire ai rispettivi padri, nonostante i due leader non condividano solo la fede politica, ma anche quella calcistica per il Beitar Jerusalem. Yalla Beitar! Rivlin ha sempre dichiarato e dimostrato una visione precisa del ruolo che ricopre. Il capo di Stato, infatti, è chiamato a osservare una rigorosa neutralità politica e ideologica, in quanto rappresentante dell'intero popolo di Israele al resto del mondo. Questa è la fotografia del presidente israeliano di Rivlin. Ma cosa ne pensa Emmanuel Navon, professore di relazioni internazionali all'Università di Tel Aviv e da lì evidentemente privilegiato osservatore di questa crisi politica israeliana? Il presidente sta acquisendo uno spazio politico forse destinato a giocare anche un ruolo di maggiore peso nei mesi che verranno. Sentite che cosa dice Navon. Innanzitutto, in Israele il presidente ha poteri davvero limitati, molto meno che il presidente della Repubblica Italiana, per esempio. Israele è davvero un sistema parlamentare dove il capo dello Stato ha solo poteri simbolici e non esecutivi, e la legge gli impone limiti nella formazione del governo. Deve garantire a chiunque abbia il supporto di almeno 61 seggi della Knesset su 120 la possibilità di formare un governo. Il motivo per cui non ha assegnato un nuovo mandato a Netanyahu è semplicemente perché Netanyahu non ha l'appoggio di 61 membri, ma solo di 59. Così, senza perdere tempo, sta cercando di spingere Netanyahu e Gantz a formare un governo di unità nazionale, che è l'unica opzione politica in questo momento perché l'alternativa sarebbe un disastroso quarto voto. Quindi, come dicevo, nonostante il presidente abbia poteri limitati e quasi simbolici, adesso la legge gli garantisce certe decisioni e quindi anche il fatto di non dare a Netanyahu un mandato e da ciò la sua volontà di esercitare pressione per un governo di unità nazionale. La voce, il commento, l'analisi di Emmanuel Navon, politologo, Università di Tel Aviv. I vostri commenti invece al 349-238-6666. Un ascoltatore suggerisce: ma perché Israele non cambia legge elettorale? È un proporzionale puro che fino adesso ha funzionato. Normalmente le legislature, o meglio i governi, duravano 3 anni sui 4 che dovrebbero, la cui durata dovrebbe essere di norma. E purtroppo non ci si è mai trovati di fronte ha un equilibrio così squilibrato, permettetemi questo strano ossimoro, con due grossi partiti, Likud e Bianco e Blu, che si contendono, peraltro, molto spesso con un programma elettorale molto molto simile, il ruolo di capo del governo. 349-238-6666 per voi. Vi faccio sentire ancora, chiedo conferma, Andrea Roccabella, cosa dici? Facciamo sentire ancora una volta la voce di Emmanuel Navon, perché a questo punto bisogna commentare questa decisione incredibile da parte del presidente Rivlin di passare la palla al Parlamento. Dice a Gantz e Netanyahu: non riuscite a fare un governo? Perfetto, ci penserà il Parlamento. Sentite. Il fatto che adesso il mandato passi alla Knesset è solo una formalità, perché i due partiti, Blu e Bianco e Likud, stanno ancora negoziando. Quindi, anche se il mandato di Benny Gantz si è concluso, le negoziazioni tra lui e Netanyahu stanno proseguendo, nonostante, come ho già detto, dovrebbe essere la Knesset a decidere. La vera questione è se Netanyahu vuole un accordo o meno. E questo dipende da chi dei due sarà designato primo ministro. Netanyahu teme che la Corte Suprema gli impedisca di coprire il ruolo di vice primo ministro, perché per legge, se ad essere indagato è il primo ministro, questo può proseguire il mandato. Ma se ad essere indagato è un semplice membro del governo, allora sarebbe interdetto dalla sua funzione. E un vice primo ministro è un membro del governo come tutti gli altri, quindi non potrebbe esercitare se indagato. Inoltre, tra i timori di Netanyahu c'è il fatto che cedendo il ministro della giustizia al partito Blu e Bianco, questo potrebbe influenzare la composizione della corte a suo sfavore. Sono questi i punti spinosi della questione. Ora, se non dovessero raggiungere un accordo, tecnicamente Benny Gantz potrebbe tornare nell'alleanza di cui faceva parte prima, ma non sarebbe una buona mossa, ora che è lo speaker della Knesset. In più, se si andasse alle elezioni, le quarte, Netanyahu non potrebbe comunque formare un governo, perché la legge dice chiaramente che una persona sotto indagine non può essere investita di un simile incarico. La sfida, quindi, è trovare un accordo sul primo ministro. In caso contrario, la Knesset sarebbe sciolta automaticamente in meno di un mese e non ci sarebbe il tempo nemmeno per legiferare contro Netanyahu. È una questione molto delicata. Gantz potrebbe non avere abbastanza carisma da spingere Netanyahu ad accettare un compromesso, ma d'altra parte è Netanyahu quello che avrebbe più da perdere se si andasse alle urne. Anche perché in questo momento, considerata l'epidemia di coronavirus, sarebbe molto pericoloso andare a votare. E Netanyahu e il Likud rischierebbero di essere tacciati di aver preso una decisione irresponsabile e sarebbero puniti dalla gente comune, che ora è in difficoltà per motivi economici e di salute e che non ha più intenzione di tollerare questi giochi politici. Quindi la sfida è davvero persuadere Netanyahu a trovare un accordo insieme a Benny Gantz. But actually convince him eventually to reach an agreement with Benny Gantz. Questa è la voce del professor Emanuel Avon dall'Università di Tel Aviv, politologo, segue le vicende politiche israeliane così eccezionali. Tra pochissimo vi farò sentire ancora la sua voce, ci sarà una punta, una coloritura un po' poetica, un po' elegiaca, ma sapete, in questo periodo anche noi ogni tanto ci abbandoniamo a questi tratteggi. Adesso la borsa e poi l'ultima parte dedicata a Israele e poi parleremo di Cina. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Prima di voltare pagine e aprire la seconda parte di Nessun luogo è lontano, fatemi chiudere il capitolo tutto dedicato alla crisi eccezionale e sorprendente che sta vivendo la politica israeliana. Allora, c'è qualche ascoltatore che scrive commenti al 349-238-6666 proprio relativamente a questa parte. I premier militari in Israele sono sempre stati forti e molto stimati, e fa riferimento evidentemente a Benny Gantz. Forse la creazione vera è uno stato unico con arabi israeliani insieme e in pace, ma in realtà molto spesso abbiamo, come dire, dato voce a esponenti sia israeliani che palestinesi che ormai propugnavano quella soluzione che de facto è one state solution, perché ormai la strada dei due popoli, due stati, sembra da una buona parte della leadership israeliana abbandonata. Qualcun altro cerca di legare con un filo rosso la comunità ebraica statunitense con ciò che avviene in Israele, chiede se sta giocando la comunità ebraica nel mondo, addirittura, chiedo scusa, non negli Stati Uniti, sta giocando un suo ruolo, così Giuseppe chiede, soprattutto quella negli Stati Uniti, che sicuramente è molto forte. Guardando sui social c'è stato un po' di delusione tra virgolette per l'abbandono di Bernie Sanders nella corsa alla Casa Bianca. Poi vi segnalo invece su Twitter una cinguettata molto interessante da parte di un nostro ascoltatore che fa riferimento a quello che è il bilancio del coronavirus in Israele. I numeri nudi e crudi dicono 12.500 casi, 2.600 guariti, 140 decessi, ma secondo il Deep Knowledge Group, è uno studio che lavora su fonti aperte e sostanzialmente questo algoritmo è stato ripreso anche dalla stampa tedesca Der Spiegel, se non erro, sembra da questo algoritmo, da questo studio, che Israele sia la nazione che sta meglio gestendo la situazione Covid-19. Ma perché il filo è sempre rosso, chiede un ascoltatore, e forse bisogna chiederlo all'altro ascoltatore che mi dava del comunista falce martello. Mi sa che sia una questione proprio di colori. Scherzi e facezze a parte, vi avevo promesso un piccolo tocco di elegia sentimentale. Torno alla voce di Emanuel Navon, sapete, politologo, parla tante lingue e ho scoperto anche l'italiano, sentite. Io parlo solo pochissimo italiano, ma imparo con un'app, perché io amo l'Italia e la lingua italiana, e quindi voglio cogliere l'occasione per dirti da Israele che l'Italia ha il nostro amore e la nostra ammirazione e che prevaremmo insieme contro la corona. Andrà tutto bene e viva l'Italia! Così Emanuel Navon, Andrea Roccabella, adesso è il momento di parlare del mistero 2.0 di Wuhan. A rialimentare il dibattito ci ha pensato il Washington Post, prestigioso quotidiano statunitense. Entra in questo dibattito con un editoriale che in realtà è stato pubblicato due giorni fa a firma di Josh Rogin, che è l'editorialista che si occupa di sicurezza nazionale e politica internazionale. Rogin ha riferito di due cablogrammi risalenti al 2018. Nel gennaio di quell'anno un'equipe di addetti scientifici dell'ambasciata statunitense ha visitato l'Istituto di Virologia di Wuhan. È un istituto che conduce ricerche sui virus anche con capitali di università americane e che, tra le altre cose, fa ricerca sulle possibili evoluzioni del virus della SARS del 2003. Dall'ambasciata americana a Pechino partono due cablogrammi, appunto, che vengono classificati come argomento sensibile, ma non riservato. Nei due leaks si dice che il laboratorio presenta alcune debolezze di management e sicurezza e si propongono una più attenzione e più aiuti, in particolare sul laboratorio che studia le relazioni tra pipistrelli e l'evoluzione di coronavirus. Il laboratorio cinese riceve l'assistenza del Galveston National Laboratory dell'Università del Texas e di altre organizzazioni americane, si legge nel cablogramma. Si richiede più assistenza al laboratorio di Wuhan perché le sue ricerche sono molto importanti, ma anche perché possono comportare dei rischi. Questa è una parte del cablogramma recuperato dal Washington Post, che è girato mano a mano anche nei servizi segreti statunitensi, che l'hanno passato anche alcuni membri del Congresso molto vicini a Donald Trump. Da qui si capisce l'attenzione di Donald Trump anche verso questo presunto comportamento di leggerezza da parte cinese. A ciò si aggiunge, e devo dire che in parte anche alcuni ascoltatori lo hanno alimentato, al 349-238-6666, quella polemica, dibattito del virus creato in laboratorio, addirittura artificiosamente creato o, nella migliore delle ipotesi, invece sfuggito, tra virgolette, al laboratorio. Proviamo a fare chiarezza e lo facciamo con chi lavora su questi temi. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano al professor Pierluigi Lopalco. Insegna igiene all'Università di Pisa, è responsabile della struttura speciale Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche, Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale della Regione Puglia. Professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, l'articolo pubblicato sulla rivista Nature il 17 marzo scorso dal titolo The Proximal Origin of SARS-CoV-2 esclude la possibilità che il virus sia stato creato in laboratorio e che sia stato manipolato. Cosa ne pensa, professore? Proviamo a mettere un punto fermo perché il tema continua ricorrentemente a tornare nel dibattito mediatico e del pubblico, più o meno rivestito di complottismo. Ci aiuta a fare chiarezza? Allora, come voi sapete, oggi noi possiamo decodificare in maniera molto minuziosa il patrimonio genetico di un virus, cioè l'RNA di questo virus. Noi sappiamo lettera per lettera da che cosa è composto. Ora, questo virus è un cugino, diciamo, del virus della SARS, quello che è comparso appunto sul nostro pianeta, sì, nel, diciamo, 15 anni fa, era il 2003. Sì. Perché cugino? Perché hanno un'origine in comune. Poi questi virus, man mano che si moltiplicano, in maniera casuale, qualcuna di queste lettere che compone il codice genetico viene cambiata, no? In maniera completamente casuale. Dopo un certo numero casuale di questi cambiamenti, il virus acquisisce alcune caratteristiche. Una caratteristica che ha acquisito questo virus, il nuovo coronavirus, è quella, per esempio, di non solo infettare l'uomo, ma di passare da uomo a uomo e di dare una malattia che è quella che osserviamo. C'è una malattia che molto spesso è una malattia lieve e che in alcuni casi poi diventa grave. Quindi è diventato, sì, un virus pandemico. Come le dicevo, questi cambiamenti sono dei cambiamenti casuali. Quindi che cosa significa? Significa che in un laboratorio noi possiamo dimostrare la casualità di questi cambiamenti. Se invece io prendo un pezzetto di RNA da un virus e lo lego ad un pezzetto di RNA di un altro virus, questo legame si nota. Cioè si nota che un virus è fatto da una porzione che già conosciamo, sì, di un altro virus. Sì. Ecco, questa è la spiegazione molto, diciamo, molto banale dello studio che è comparso su Nature. È quello, sì, che un po' dicono tutti i virologi. E i virologi dicono è inutile che andiamo a cercare una spiegazione così complicata di questo fenomeno, visto che abbiamo una spiegazione naturale, cioè che è la selezione naturale dei virus che naturalmente cambiano e che ad un certo punto possono acquisire questa caratteristica. Quindi questo dovrebbe in qualche maniera fugare le teorie del complotto. Sì. Poi se in un laboratorio di Wuhan ci fossero delle falle nella sicurezza, beh, questo è un altro discorso, però dire che in questo laboratorio di Wuhan si stesse ingegnerizzando un virus, beh, Non è questo, ecco, se hanno ingegnerizzato un virus non era questo. Ecco. Sì. Allora, professor Lopalco, com'è possibile che un virus sfugga, e qua ci deve perdonare anche il lessico particolarmente prosaico, da un laboratorio? Le immagini che stiamo girando, che stiamo vedendo e che girano in questi mesi oramai, quando mostrano i laboratori, mostrano dei livelli di sicurezza, si lavora su piccole provette, c'è un plexiglass che protegge chi lavora, ci si disinfetta, si esce, immagino vi siano degli standard di sicurezza ormai riconosciuti a livello internazionale. Come fa una piccola particella di virus a sfuggire a tutti questi controlli? È possibile? Allora, guardi, i laboratori dove si lavorano questo tipo di virus sono ben diversi da quei laboratori che noi vediamo spesso nei telegiornali, che lei dice appunto c'è il plexiglass davanti. Okay. Quelli sono laboratori di bassa sicurezza. Nei laboratori di alta sicurezza si entra con uno scafandro, cioè sì. I laboratoristi entrano davvero con uno scafandro, sono completamente isolati, si disinfetta all'ingresso e all'uscita, cioè sono appunto i laboratori di altissima sicurezza, sì, dove si lavorano questi virus respiratori o il virus Ebola, tanto per dirne uno. Chiarissimo. Quindi i livelli di sicurezza sono davvero elevatissimi. È chiaro che se io vado a fare, immagino il report di a cui facevate riferimento, sì, se io vado a fare un pochino le pulci ad un laboratorio di altissima sicurezza, non è escluso che trovo delle piccole defaillance in questi protocolli, perché sono dei protocolli molto stringenti. Sì. Come fa ad uscire? Sì. Potrebbe essere che c'è una breccia in questi protocolli e non lo so, eventualmente un laboratorista può infettarsi e quindi può portare fuori, si infetta e porta fuori, fuori l'infezione. Questa potrebbe essere una possibilità, però per infettarsi significa che non ha seguito procedure, cioè che è entrato a mani nude in un laboratorio del genere. Insomma. Altamente improbabile. L'ultimissima domanda, professor Lopalco, prima di lasciarla al suo lavoro, e in questi giorni ne ha da fare è parecchio. Gli standard a cui facevamo riferimento sono internazionali? Cioè è possibile che la Cina utilizzi protocolli diversi da quelli che utilizziamo noi in un laboratorio italiano? No, sono standard internazionali. Cioè gli standard di sicurezza dei PLF3, cioè, sono degli standard riconosciuti, anche perché appunto poi questi laboratori sono in contatto, ci si scambia informazioni. Sì. C'era anche una presenza statunitense, quindi evidentemente gli statunitensi appunto non andrebbero a lavorarci se ci fossero appunto protocolli diversi. Grazie mille al professor Pierluigi Lopalco, ordinario di igiene all'Università di Pisa. Buona giornata e buon lavoro, professore. A voi, buon lavoro. Allora, andiamo diretti sulle strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, ve lo anticipo, pensate un po', parleremo di Cina. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. La voce che state ascoltando è quella del portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, che dice: chiediamo all'America di rispettare la verità e le opinioni comuni della comunità internazionale. L'America si concentri sul suo controllo e sulla sua prevenzione del virus. Così pochi giorni fa Pechino rispondeva a quel fuoco di fila che ormai si sta sostanziando da parte dell'amministrazione americana contro la Cina. Sembra che nelle ultime settimane, dopo una narrazione che sembrava prevalente in cui si faceva un plauso comune internazionale alla Cina per come aveva gestito l'epidemia di Wuhan, sempre restando che la mancanza di trasparenza ci impone un sacco di punti di domanda, improvvisamente, soprattutto da parte americana, c'è stato un cambio di rotta. Cerchiamo di capire meglio se è in corso una guerra, oltre che contro il virus, anche una guerra di propaganda. E lo facciamo con Cecilia Attanasio Ghezzi, sinologa, firma della Stampa. Cecilia, buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, ciao. Allora, la Cina e Pechino diventano nuovamente il grande bersaglio. Che cosa c'è in ballo? Quanto si stanno affilando le armi della propaganda, Cecilia? Diciamo che le armi si stanno affilando dall'una e dall'altra parte. Clamorosa è stata in tutta la narrazione statunitense il lessico usato dal presidente, che di certo non è passato inosservato, il chiamare questo nuovo coronavirus Chinese virus o addirittura Wuhan virus o Wuhan flu, quando si poneva l'accento sulla malattia. Questo non è passato sicuramente inosservato alla Cina, che ha risposto colpo su colpo. E con una nuova politica, perché abbiamo visto diplomatici giovani molto aggressivi, spesso sui social network, quegli stessi social network che in Cina sono censurati, come Twitter, come Facebook, ma financo sulle pagine ufficiali delle ambasciate, li abbiamo visti in una presenza inedita, stressare, sottolineare il punto che l'origine di questo virus non è ancora dimostrata. Sì. Quindi sì, potrebbe essere la Cina, ma anche altre parti. Alcuni si sono spinti addirittura a dire che il virus è stato portato a Wuhan da militari statunitensi ad ottobre, sì, quando siamo entrati anche noi come italiani in questa propaganda, quando alcuni i medici di base della Valseriana hanno detto: però abbiamo registrato un'impennata di polmoniti virali anomala già da ottobre, non è che il Covid-19 girava già a quella data, ottobre dell'anno scorso, del 2019? E subito sulla stampa cinese è stato detto: ma allora si può dire anche che il virus è nato in Italia? Allora, nel racconto di Cecilia Attanasio Ghezzi, lo ricordo, è sinologa, lo sottolineo perché vuol dire che lavora sulle fonti primarie, scrive sulla stampa, nel racconto di Cecilia quanto la macchina della propaganda di Pechino sia pronta a cogliere anche il minimo segno di debolezza, tra virgolette, dell'Occidente per poi farlo diventare un'arma. C'è un sms di un'ascoltatrice, Daniela da Modena, che dice: ho l'impressione che Trump si prepari a chiedere un immenso, inaudito risarcimento danni alla Cina, una cosa talmente inaudita che darebbe le vertigini anche solo a immaginarlo. Un po' ci hai spiegato, Cecilia, come funziona il meccanismo della propaganda cinese, cioè cogliere qualsiasi opportunità, anche minima, per rivolgerla contro l'avversario. Però è anche vero che, come dire, la reticenza iniziale da parte di Pechino, stigmatizzato oramai da tutto il mondo, è sotto gli occhi di tutti. Come fa Pechino a rimediare a quell'errore imperdonabile? Ne abbiamo dato notizia proprio ieri, uno scoop di AP rivelava che per giorni e giorni c'è stata mancata comunicazione, insomma il re è nudo da questo punto di vista. Sì, il re è nudo. Devo dire che dopo aver visto come l'Italia in primis, poi l'Europa e gli Stati Uniti in ultimo hanno reagito con ritardo, mi sento anche di in qualche maniera scusare l'agire cinese, nel senso loro si sono trovati con un virus nuovo e addirittura rispetto allo scoop della P, diciamo che noi abbiamo notizia data dalla rivista bisettimanale proprio della leadership cinese Chush, che dà notizia di un meeting del comitato permanente del Politburo, quindi l'organo a sette membri che è all'apice della politica cinese, già dal 7 gennaio, retrodatando quindi ulteriormente la data di conoscenza del virus e che quindi questo virus poteva passare da uomo a uomo. Sì. Allora, nelle parole di Cecilia Attanasio Ghezzi, tutta la complessità non soltanto del trattare l'emergenza Covid-19, ma anche nel raccontarla. Ovviamente i regimi cercano a modo loro, con le competenze, con le abilità e le armi che hanno, di evitare l'impasse, la gaffe politica, lo scontro a tutti gli effetti. Però poi Cecilia Attanasio Ghezzi, lo ricordo, sinologa, firma della stampa, c'è un aspetto. L'ha tirato fuori il Wall Street Journal proprio in queste ore, mentre Trump prende di mira Pechino. Si parla ancora di test nucleari. Allora, un rapporto, Cecilia, del Dipartimento di Stato statunitense sul controllo degli armamenti non è ancora pubblicato, ma il Wall Street Journal ci ha messo le mani sopra. La Cina potrebbe essere nella fase di conduzione segreta di test nucleari, pur con potere esplosivo molto basso, nonostante il fatto che abbia da sempre rassicurato Pechino che non lo sta facendo. Fa parte anche questo di propaganda da parte degli Stati Uniti per demonizzare la Cina? È un super scoop del Wall Street Journal o c'è qualcosa che non va? Guarda, l'argomento è molto complesso. Io quello che mi sento di poter dire è che tutti questi che noi chiamiamo scoop in realtà sono riprese di notizie note. Si possono inserire in un binario di propaganda perché si stanno concentrando tutti in questo periodo e tutti portano una stessa visione della Cina. Che la Cina conduca esperimenti nucleari, peraltro nella regione più occidentale, che è quella nota diciamo per i campi di rieducazione alla popolazione musulmana, sì, nello Xinjiang, sì, è noto da oltre 20 anni. Sì. Quindi certo, ci sono dati nuovi, ovviamente ogni documento, c'è anche questo da dire, e ogni documento ufficiale che esce dalla Cina, essendo tutto segretato, è scoop. E questo hai ragione, diciamo che con questa chiosa ci illumini anche diciamo su quelle degli aspetti di opacità tipici del regime cinese. Grazie mille Cecilia Attanasio Ghezzi, sinologa, firma della Stampa. Buona giornata, buon lavoro Cecilia. Andrea Roccabella mi fa segno e mi dà un ordine. Qui ubbidisco volentieri, ringraziandovi per l'ascolto, ringraziando tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.